Presente alla prima uscita del re con il nuovo abito, nessuno ebbe il coraggio di svelare la truffa. Impauriti dalle conseguenze e dalla possibile ira del re, La corte trasmise al popolo l'ipocrita bugia di un vestito degno di un dio, creando aspettative e curiosità nei sudditi. Alla reale cavalcata verso il castello d'estate, il re indossò l'abito contro il parere dei suoi consiglieri, lasciando esterrefatti i sudditi mentre cavalcava in costume adamitico. Anche in questo caso nessuno ebbe il coraggio di proferir parola, temendo la reazione indispettita del re, e tutto continuò come sempre finché un bambino di 5 anni, salito sulle spalle del padre per vedere meglio, gridò: «Il re è nudo! Non ha nulla indosso! Non ha proprio nulla indosso!» Si misero tutti a urlare alla fine, e l'imperatore rabbrividì, perché sapeva che avevano ragione, ma intanto pensava: «Ormai devo condurre questa parata fino alla fine». E così si indirizzò ancora più fiero, mentre i ciambellani lo seguivano reggendo una coda che non c'era per niente. If you won't stay, so what you say? Radiazione radio diretta d'azione a ottobre 11 2013. Oggi diretta d'azione, come lo ricordo tutti i venerdì con sola controinformazione e musica, il lunedì invece alla stessa ora si va in diretta con, oltre alla controinformazione e musica, alla lettura. Ricordo che stiamo leggendo ultimamente il libro La Zantraglia di Marcello. Lo sta leggendo lo stesso Marcello, come già da un anno a questa parte avviene su Radiazione anche per le altre letture. Noi siamo arrivati ad una buona parte del libro, chi si sia perso qualche parte può andare a vedere nel blog di Radiazione alla categoria Ascolta le dirette d'azione tutti i podcast in cui c'è la lettura, oppure se vi interessa anche i podcast dove c'è la controinformazione, ma questa è molto relativa, anche perché andare a ascoltare notizie vecchie serve a poco. Vi invito a farlo per andarvi a riascoltare la lettura di La Zantraglia. Allora, ricordo gli indirizzi utili per Radiazione per chi vuole mandare a qualsiasi tipo di scritto, comunicato, iniziative, presidi, qualsiasi cosa potete inviare tramite mail, lo potete fare all'indirizzo radioazione@autistici.org. Invece per il blog, come dicevo prima, dove potete andarvi a riascoltare le vecchie dirette d'azione, podcast vecchi, delle vecchie dirette, potete andarvi a scaricare opuscoli, libri, cd, manifesti, insomma c'è un po' di cose nel blog di redazione, andate nella categoria download e là potete scaricare di tutto gratuitamente, perché noi non siamo merce, Radiazione non è merce, lo ricordiamo. Quindi il blog è radiazione.noblogs.org, dove quotidianamente potete anche andarvi a leggere la controinformazione aggiornata quasi nel quotidiano, quando c'è la mettiamo, quando non c'è qualche volta si scrive qualcosa di mio. Quindi per il blog l'abbiamo detto, la mail l'abbiamo detta, ricordiamo il link diretto per la radio, radiazione.listentumaradio.com, o altrimenti attraverso il blog sul banner, quello a destra sulla sidebar, ci cliccate sopra il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19 e potete ascoltare la diretta d'azione, non cliccateci in altri giorni perché non ascolterete una benemerita sega. Allora, ora ci andiamo a ascoltare un brano dei Giri di Volt, prima di cominciare, si è fatta già l'orario buono, normalmente si aspetta questo orario 17.15, 17.20 per iniziare, per dar modo agli altri ritardatari che ascoltano di solito la radio di collegarsi con noi. Allora, ci ascoltiamo un brano dei Giri di Volt, poi si torna qui e si inizia subito la diretta d'azione. Spécial dédicace pour tous les gens qui sont abandonnés par la société, ceux qui ne sont pas acceptés, ceux qui sont exclus, ceux qui sont jugés par leur capacité économique. Spécial dédicace pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère, pour tous ceux qui vivent en précarité, abandonnés par la société, pour ceux qu'on n'écoute pas, pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère. Spécial dédicace aux gens exclus, aux jeunes en colère, aux gens déçus, à ceux qui souffrent du froid dans la rue, traités comme des ordures, traités comme du papier cuit. Si tu es anormal, tu gâches la belle vue d'une société hypocrite pour être bienvenu. Il faut que tu t'adaptes, sinon tu n'es pas reçu. Faisons depuis 15 ans le silence, faisons du bruit, oui. Car partout y a des minorités, des gens exclus de la société. C'est encore le principe de Darwin qui règne, le plus fort va gagner, va rester. Arrêtons de vivre selon son principe dépassé, de discriminer pour ne pas être discriminé, d'opprimer pour ne pas être opprimé, de se mettre payant pour pas être payant, je veux l'égalité. Pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère, pour tous ceux qui vivent en précarité, abandonnés par la société, pour ceux qu'on n'écoute pas, pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère. Je vous tiens dans ta forêt, ça taille dans des agrégations, d'être dit pour du brillant ballot. Been victim, let me tell your papa and mama Babylon greatest, and that's on the government and the vampires capitalize. I will be sent from the world like segregation. belle, belle, belle. Now why you my people in pain, yeah, yeah, yeah. Wanna see my people like so well, well, well. Now I see my people say them swell, swell, swell. Yeah, man, boom. Pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère, pour tous ceux qui vivent en précarité, abandonnés par la société, pour ceux dans les groupes. Aux gens qui vivent la misère, aux gosses en papa ni mère, aux victimes humanitaires qui ne savaient pas quoi faire, aux femmes violées dans des guerres, ceux qui travaillent sans salaire. Comment peut-on leur dire de se taire, dédier aux clodos abandonnés, aux clodos qui sont livrés, à la police au condé, enfermés, emprisonnés, dédier aux désespérés qui n'ont pas pu résister à la prison quotidienne, réveillez-vous. Pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère, pour tous ceux qui vivent en précarité, abandonnés par la société, pour ceux dont les groupes. Pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère, pour tous ceux qui vivent en précarité, abandonnés par la société, pour ceux qu'on n'écoute pas, pour tous ceux qui sont dans la misère, pour tous ceux qui sont dans la galère. So we tired of the suffering, so tired of the manipulation, so the poor people then ball out well. E allora, dopo ieri Revolt si torna in diretta con la controinformazione, più che controinformazione anche, cioè va nel calderone controinformazione. Iniziamo leggendo uno scritto fresco fresco, scritto, finito di scrivere poco prima della diretta d'azione, che iniziasse la diretta d'azione prima delle 16, quando va la playlist fino alle 17, dove poi inizia la vera diretta d'azione. Quindi dicevo, di uno scritto a firma del sottoscritto, dell'anonimo, radiazione, solidarietà e riflessioni. La mattina del 19 settembre scorso venivano arrestati due compagni nelle vicinanze di Roma, Adriano Antonacci e Gianluca Iacovacci. I due compagni anarchici arrestati sono accusati di una serie di attacchi, 13 per la precisione, da quanto si è potuto sapere fino a questo momento, perché le notizie latitano. Gli obiettivi degli attacchi erano punti Enel ed Eni, contro il cantiere della discarica ad Albano Laziale, contro aziende che devastano l'ambiente e sfruttano animali, più altri sabotaggi in solidarietà con i compagni detenuti. Tutti gli attacchi rivendicati con film tipo Elf, Half, Azione Diretta in Difesa della Terra, FAI, FRI o semplicemente con una cerchiata. Come è capitato già in passato recente, con gli arresti Ardire e quelli di Alfredo e Nicola per l'azzoppamento di Antato Nucleare e Roberto Di Nolfi, la solidarietà verso i compagni non si è fatta aspettare, perché non è arrivata da nessuna parte, tranne uno scritto di alcuni compagni da Roma. Ancora una volta, non una riga sui compagni arrestati, non un minimo accenno di gesto di solidarietà nei loro confronti. E allora diciamolo chiaro e tondo, senza prenderci poi più di tanto per il culo. Tra la maggior parte del movimento anarchico italiano domina la paura di essere coinvolti in qualche inchiesta giusto per aver dato solidarietà ai compagni detenuti. E se poi i compagni vengono arrestati con accuse di appartenere a sigle o acronimi, allora la cosa diventa ancora più spaventosa. Paura non criticabile, perché è una cosa normale che può impadronirsi delle personalità più deboli quanto di quelle di chi ha fatto della prassi il megafono del pensiero. Ma è una paura che andrebbe allontanato proprio perché siamo anarchici e la lotta allo Stato e alle sue istituzioni ha solo due modi per essere portata avanti: la propaganda e l'azione. Nessuna di queste due deve essere orfana dell'altra, altrimenti rimarrebbero fiumi di parole o gesti isolati. Molto spesso si preferisce dare spazio a detenuti, al limite anche non compagno, o a bruciori di culo, ingiuci, critiche sterili o ad argomenti che con l'anarchismo hanno ben poco a che vedere, che fa girare notizie sui compagni detenuti e o di solidarietà attiva. E così capita anche che sui due compagni, Adriano e Gianluca, le notizie sulle loro condizioni di detenzione si debbano venire a sapere dai compagni anche loro detenuti. Questo dovrebbe essere il compito di chi fa controinformazione soprattutto. ma spesso si cerca di riempire blog, siti e giornali di un calderone promiscuo giusto per riempire pagine cartacee e internet. E fosse solo questo, capita che gli utilizzatori dei cosiddetti copia e incolla non leggono nemmeno le notizie che pubblicano di traduzioni fatte con Google Translator piene di errori e concetti anche non espressi da chi ha redatto lo scritto. Spesso si delega solo ad alcuni di pubblicare alcune cose, così il culo è al riparo. Sicuramente ci sono molti anarchici che non condividono sigle, acronimi e modi di agire, ma per il sottoscritto si tratta di paraculi che non vogliono spendersi per l'anarchia, dato che l'unica forma di azione diretta che approvano è il volantinaggio, l'attacchinaggio e organizzare iniziative vuote di contenuti attuali che riguardano la repressione contro gli anarchici e l'attacco. Da redazione va un abbraccio ribelle e la solidarietà con Adriano, con Gianluca, Alfredo, Nicola, Sergio e a tutti i compagni detenuti in Grecia per la CCF, lotta rivoluzionaria, i compagni arrestati per la doppia rapina in Velvetto Cozzani, ai compagni Spiros e Andreas di Nadir, a Marco Kamenish, a Gabriel Pombo da Silva, ai compagni detenuti in Cile per il caso Security, ad Ivan e Carla, ad Hans, ad Henry in Bolivia, ai compagni russi e indonesiani, ai compagni detenuti in tutto il mondo e ai compagni fuggitivi in tutto il mondo, come Felicity, Nikos e Pola. Radiazione e poi tra virgolette anonimic. E questo era lo scritto di Radiazione per quanto riguarda un po' il modo di fare almeno nell'ultimo anno. Ogni volta che avvengono arresti c'è un silenzio tombale, non si viene a sapere nulla dei compagni che sono appena arrestati. Io stesso ho invitato un po' di tempo fa ad avere notizie subito dopo l'arresto dei compagni, perché era passata una settimana e non se ne parlava per un cazzo, e quindi avevo messo un invito a qualche altro sito o blog notizie sui compagni detenuti, in modo da renderle pubbliche per tutti i compagni a livello mondiale. Quindi viene a mancare come al solito, come dicevo, da un anno a questa parte questo tipo di informazione. Ci sono punti di vista differenti, la stessa blog di redazione per esempio non tratta quasi per nulla di altre lotte come la TAV, ma perché penso che comunque ci siano già molti blog che dedicano spazio a questo tipo di lotte, quindi andarne a ricreare un altro che parla degli stessi argomenti, al limite pubblicare sempre le stesse cose, e poi comunque il movimento No TAV al sottoscritto non interessa. Interessa la lotta contro la TAV, ma non interessa quello che è il movimento, questo movimento molto promiscuo che va dal sindaco al cittadino all'ex definito terrorista dallo Stato, ai comunisti, agli anarchici, insomma. Quindi questi tipi di movimento a Radiazione non interessano, molto spesso si interessa dare più spazio a notizie che non vengono pubblicate da altre parti. Non con il fatto che dicevo che molto spesso viene fatta la delega a chi pubblica certe cose, non era riferito a me, io le pubblico perché me la sento di pubblicare, perché ci credo in certe cose e perché penso che sia giusto che veicolano attraverso web, ma attraverso anche il giornale cartaceo, perché non possono rimanere delle azioni così vuote, perché poi si sa dell'azione ma non si sa il testo rivendicativo. Togliendo il testo rivendicativo vuol dire togliere l'importanza all'azione, quindi uno dei miei obiettivi è quello di andare anche a dare importanza all'azione, andare a capire perché i compagni che hanno agito in quel modo, per quale scopo, per quale solidarietà o per qualsiasi altro motivo. quindi se la fondazione pubblica la maggior parte di queste rivendicazioni è perché ne condivide il metodo dell'azione diretta senza farsi nessun problema, senza nessuna paura. Lo sappiamo che cioè, possono creare inchieste, che possono rompere i coglioni, ma visto dal momento in cui uno decide di spendersi anche in un altro modo oltre al quotidiano e farlo in un altro modo, tipo un blog o un giornale, è giusto che lo faccia in tutto e per tutto e non in parte. In parte mi sa di paraculismo. Allora, quindi la firma è nuova, Radiazione Anno Nemic, perché Radiazione si è rotto i coglioni, visto che è stata qualcuno l'ha dichiarata, il sottoscritto un infame, uno dei servizi segreti, un razzista. Allora, nessuno ne ha parlato, qualcuno ha avuto anche da parlare, qualcuno ha avuto anche da criticare perché ho fatto questa cosa, perché avevo pubblicato questo scritto su un'iniziativa in Messico. Se si parlava di anarchismo informale, il sottoscritto si sarebbe stato zitto, come è stato zitto fino ad ora. Siccome nell'iniziativa in Messico si parla di anarchici informali e qualcuno li ha criticati, allora lo scritto arriva da quel punto di vista là, perché l'anarchismo è un concetto, gli anarchici sono un'altra cosa. Quindi vabbè, da oggi in poi si va contro tutto e contro tutti, chiunque rompe coglioni è obiettivo di Radiazione. Ora ci ascoltiamo un brano dopo questo piccolo punto di critica del sottoscritto. Lei è Lydia Lunch, il brano è Fields of Fire, e poi dopo si torna qui e si continua con la controinformazione. Yeah. E lei era Lydia Lancio nel brano Fields of Fire. Allora, ricordo ancora una volta che oggi va solo contro informazione e musica, è la diretta del venerdì. Invece lunedì si riprenderà con la lettura del libro La Zandraglia di Marcello, letto da Marcello. Allora, andiamo avanti con la controinformazione. Quindi si era parlato proprio alla fine della fine di un'iniziativa messicana. Si va in Messico perché c'è uno scritto da parte dei compagni messicani intitolato Senza diritto la nostra risposta, gli incappucciati rispondono. Perché ora si preoccupano che non abbiamo un viso, se prima che lo coprissimo per voi non esistavamo? Le parole cominciarono ad accumularsi, mentre noi ancora con i cappucci sudati, la rabbia solidale e i sorrisi eretti, ripiegavamo tra le strade della violenta normalità. Migliaia di commenti monotoni cominciarono a diffondersi, derivavano dal buon discorso truccato del potere che iniziò ripetendosi tra i cittadini mediatizzati. La stampa si è affrettata a servire il piatto caldo e aiutare disinformazione come un altoparlante per questi discorsi impulsivi e infondati. Era urgente per il potere minare le scintille rivoluzionarie che brillarono in vari angoli di questo paese e l'opinione pubblica, la sua opinione pubblica, ha giocato il suo ruolo, cominciando a dire cose insensate, allarmanti su ciò che essi non conoscevano, su quello che gli sembrava grottesco e inaccettabile, su ciò che non si adattava tanto alla loro tanta voluta retorica cittadinista democratica. Il potere ci teme, ed ha ragione, perché ancora una volta abbiamo rotto la sua pace sociale tanto pregiata e sta cercando di schiacciarci riducendo noi a dei falchi, truppe d'assalto, vandali irrazionali. Abbiamo tardato con la rabbia e la dignità intatta, noi come incappucciati sovversivi che non, con fermezza combattemmo il 2 ottobre, avanziamo le nostre parole. Dobbiamo parlare, attaccare la proprietà privata e i suoi servili tutori e rivendicare la superiorità della vita sulla dittatura degli oggetti. Noi attacchiamo non contro una banca, non contro tale commercio, ma attacchiamo una logica. Attacchiamo la dittatura assassina del mercato, sotto la quale riposano milioni di morti e una naturalezza agonizzante, simbolicamente, indicando il suo sostegno, che è il rispetto che ci hanno inculcato verso la loro figura sacrosanta da bambini, inclusi i poliziotti, il cui unico scopo è quello di perpetuare l'ordine della società, ossia difendere questa. È questo di cui abbiamo bisogno? In migliaia si sa, sorriderebbero sapendo che dietro gli attacchi ci sono azioni di individui consapevoli, che stanno facendo azioni di negazione contro ciò che anche essi hanno il desiderio di negare. La negazione diffusa è il primo passo per la costruzione. Questo è il senso di una rivolta, rivoluzionaria in un immaginario classico, di persone che rompono il loro ruolo di merce per divenire persone capaci. Molti sono stanchi di proteste innocue o in attesa che a qualcuno venga a dargli una coscienza o educare. Noi non saremo con coloro che pensano che di cui hanno bisogno gli oppressi è la cultura e immaginano la loro arte alternativa come una buona onda. Molti non vogliono protestare, vogliono affermare, vogliono vendetta, vogliono dare sfogo alle loro passioni. Vogliono essere ascoltati, non da quelli del potere e non dagli loro uguali, e anche ascoltare se stessi. E sappiamo che quando si farà questo passo si starà cominciando ad affrontare la rivoluzione. Diversi notti di insurrezione violenta possono fare più di 10 anni di propaganda incessante, silenziosa. Noi non siamo stupidi, noi sappiamo che la rivoluzione non è solo il frantumo del vetro. Puntiamo ad un'organizzazione autonoma degli oppressi, a creare strutture autonome di organizzazioni in cui le reti sono costruite per una realtà orizzontale. Ma sappiamo che questo sarà solo l'inizio, durante e dopo l'insurrezione, e volentieri aggiungeremo altri contributi a questa visione. In una discussione precedente abbiamo messo in chiaro che non abbiamo un viso, non abbiamo portavoci, ma la parola. Alcuni lo sanno, non siamo apparsi ieri, non siamo un prodotto di moda, creato da zero. Per quegli attivisti ignari che ci accusano oggi di non essere una parte della lotta, abbiamo chiesto: chi combatteva contro la Polizia Federale durante la rivolta in Oaxaca? Chi ha fatto la guerra durante il vertice del 2004 a Guadalajara? Chi ha resistito degnamente al lato della base della CNTE il 13 settembre? Prima di dire che siamo infiltrati, sapevamo che stavamo combattendo con la gente, sapevamo che cos'è la resistenza. E quindi non ci sentivamo un'avanguardia o il fronte unico e illuminato del movimento sociale. Sappiamo quello che le persone hanno sofferto e sappiamo gli errori delle recenti lotte. Sappiamo chi sono i traditori e li abbiamo puntati. Sappiamo che il movimento sociale approfitta delle speranze e con il sangue di molti. Poi ci vengono a parlare di arroventare le loro manifestazioni, indebolire il movimento sociale. Di quale movimento parlano? Di quelle sette innocue e pietose delle quali il governo se la ride? È quel movimento che attende sottomesso da due millenni che ad opera di una forza metafisica le masse articolate cominciano a muoversi verso la trasformazione lenta della società? Scusateci, davvero, non è il disprezzo per gli sforzi genuini, ma siamo stanchi di aspettare. Siamo stanchi dei nostri morti che marciscono nel dimenticatoio o dietro quei discorsi noiosamente ripetitivi alla fine di marce incolori. La lotta di strada non spera, grida vendetta del passato per la passione del presente e con la negazione che apre la strada per il futuro. E lo sappiamo da quello che abbiamo visto, che molti stanno già cominciando ad unirsi. Benché cerchino di seppellirci con l'opinione pubblica, vediamo migliaia di persone che si rivolgono a noi e per loro continueremo più sicuri. La paura più grande dello Stato è sapere che ci sono agenti diversi dalla sua logica. Credeva di avere il monopolio della forza e la nostra pratica è una dimostrazione che non è così. La violenza non appartiene solo a loro. Ora abbiamo nelle nostre mani il fuoco e nonostante la sua grande macchina non ci fermeremo. Torneremo prima di quanto pensiate. La prateria brucerà. Per essere chiari, vogliamo promuovere una crisi sociale contro i valori della dittatura commerciale autoritaria. Desideriamo propagandare un'insurrezione come già in tutto il mondo comincia a prendere forma. Contro l'assalto repressivo abbassiamo il cappuccio, manterremo la rabbia per la strada e coltiviamo le nostre coscienze. Con le braccia armate e propagandiste del potere nessuna considerazione. 45 anni fa accusavano il movimento studentesco più militante di essere russi o della CIA. Oggi ci accusano di essere persone che non conoscono la vera lotta. Fuoco ai poliziotti e ai loro difensori, sia a destra che a sinistra. Abbassa il regime di morte e miseria. Solidarietà con gli arrestati. Con la rivolta si può. Primi giorni di ottobre, territorios administrados por el Estado messicano. Coordinador della sombras. Coordinatori dell'ombra. Allora, questo era lo scritto dei compagni messicani che danno il loro punto di vista per quanto riguarda più che altro la lotta in strada, cose che a noi specialmente italiani non ci sono nuove, perché puntualmente tutt'oggi capita la stessa cosa, dei cortei dove c'è qualcuno che vuole protestare in modo radicale, viene additato dai più democratici, dalla parte del corteo più democratico, anche molto spesso anche da parte di alcuni anarchici molto democratici, un'assurdità, ma esistono anche gli anarchici democratici. Quindi penso che c'è poco da capire, da spiegare sul contenuto di questo scritto dei compagni messicani, anche perché non ultima mi sa che è arrivata una dissociazione proprio in Italia da parte del movimento NOTAV per quanto riguarda l'incendio alla, se ricordo bene, era una scavatrice della Geomont, è arrivata subito la smentita pure sotto brutto invito di qualche giornale, di qualche giornalista, per far sì che il movimento Notav mostri la faccia buona, faccia vedere che con la parte violenta sia che la parte violenta venga messa a disparte. Quindi capita, cioè lo scritto dei compagni messicani capita a pennello. Ora ci ascoltiamo un brano dei Skinny Puppy, il brano è Politikill, poi dopo si torna qui, si continua con la controinformazione. We'll be right back. Allora si torna qui con la controinformazione. Si è parlato di Messico fino ad ora, un po' cioè, letto un po' lo scritto dei compagni messicani, ce n'è anche un altro che stavo cercando, avevo trovato in spagnolo, sto cercando un attimo di tradurlo un po' alla volta, perché certi concetti non mi erano chiari, quindi stavo pure cercando di capire meglio prima di pubblicarlo sul blog di redazione e prima di far passare cose che non vengono dette per una traduzione sbagliata. Allora, quindi dal Messico si vola in Grecia dove la Fenice risorge ancora, c'è il progetto Phoenix che è arrivato al numero 7, ora leggeremo il 6 perché il 6 e il 7 sono arrivati quasi nello stesso periodo. Allora, progetto Phoenix numero 6, Eat the Judge, mangia i giudici. Ancora una volta ci incontriamo nel fuoco con vecchi compagni decisi a far crollare le considerazioni poliziesche che vorrebbero porre fine di una storia finita. Senza dubbio la cospirazione delle cellule di fuoco non è terminata per niente. E la fiamma interiore che arde dentro di noi è la fenice che risorge ancora una volta dalle sue ceneri. È il fuoco della negazione e del nichilismo che grida: non riesco a smettere, non posso bruciarmi, nulla può spegnermi. Circa un mese fa i nostri due fratelli Andreas e Spiros sono stati arrestati a Salonicco, accusati dell'invio del pacco esplosivo all'ex comandante dell'unità antiterrorista. Le parole vengono meno, fratelli, voi sapete che il sole continuerà a sorgere ancora per tutti noi, la cui unica patria è la nuova anarchia. La fenice rinasce dalle proprie ceneri e ride della tranquillità dei cotardi, offrendo il fuoco di Prometeo agli eterni insorti. Così l'invio del pacco bomba all'inquisitore Moccas è una prima risposta minima e riflessiva. L'unica via d'uscita è dar fuoco alle tesi riformiste della definitiva ed essere i primi ad attaccare. Inoltre Olga, Damianos, Caris, Yorgos, Panayotis, Teofilos, Christos, Gerasimos, Yorgos Nikolopoulos, Michalis, vale a dire i 10 fratelli delle CCF che sono detenuti con doppie, triple e quadruple custodie preventive superiori ai 36 mesi, quando il limite è 18, e ora sotto processo per vari casi, stavolta accusati anche di istigazione. Dimitris Mokas è l'unico responsabile per i casi di terrorismo in Grecia, ovvero esclusivamente della nostra organizzazione. La carriera di questo infame non differisce molto da quella di un qualsiasi funzionario di giustizia, omuncoli senza anima che diventano giudici per soddisfare i propri complessi. Questo pagliaccio concretamente si è solo mostrato più efficace degli atti vermi del Tribunale d'Appello nel respingere la palla ai suoi superiori. Il suo desiderio di far carriera è stato esaudito. Ora è responsabile di centinaia di mandati di comparizione, interrogatori e custodie preventive, sempre col sorriso vendicativo sulle labbra. Il culmine della sua disprezzabile condotta e vigliaccheria è stata l'estensione della custodia preventiva al nostro compagno delle CCF, Gerasimos Tsakalos. Un'ora prima della sua fine, mentre il compagno era a letto e stava al 23° giorno di sciopero della fame. Per tutto ciò che ha fatto abbiamo scelto di inviargli il nostro regalo di vendetta. Naturalmente non è stato inviato alla torre di vetro del Tribunale d'Appello, dove firma dalla sua scrivania i fascicoli giudiziari di merda contro i nostri fratelli e le nostre sorelle, con l'attitudine del magistrato, ma l'abbiamo inviato a casa sua, dove si sente sicuro. Sappiamo che stronzi come Moccas, dopo aver svolto il loro compito sacro di incarcerare decine di persone, tornano al calore di casa, fingendosi bravi sposi e buoni padri. Così, puntato l'obiettivo, abbiamo trovato la casa e inviato il pacco a quell'indirizzo. Ecco qual è il risultato delle nostre indagini, filmate dalla cospirazione delle cellule di fuoco. Si sa la spudoratezza degli atti che ha compiuto negli ultimi anni. processi farsa finiti con condanne di decenni senza prove, custodie preventive consecutive che privano della libertà chiunque viene considerato un problema per la polizia. E non parliamo solo dei guerriglieri urbani. Si tratta di una tattica stabilita attraverso la legge antiterrorista e ora applicata in modo generalizzato in decine di casi diversi. Responsabili di ciò sono tutti quelli che una volta scarcerati si scordano le gravi parole di vendetto contro i giudizi e i procuratori colpevoli. Così le carceri sono piene di persone che, anche se si sentono colpite dalle decisioni dei giudici, non trasformano la propria vicissitudine in ira e l'ira in azione. Che questo attacco diventi un invito a più azioni di vendetta per tutti quelli che, dentro e fuori le mura, hanno sperimentato la meschinità delle autorità giudiziarie. Nulla è irraggiungibile, ci sono centinaia di funzionari giudiziari, non tutti si nascondono, non è così difficile incontrarli, attacchiamoli con tutti i mezzi a disposizione. Solo allora si capirà che c'è una guerra, e se non lo capiscono, sicuramente noi ci sentiremo meglio sapendo che ci siamo vendicati di questi inquisitori. Riguardo a chi sta dietro le mura, l'unica posizione degna riguardo a questi schifosi è il disprezzo, in ogni modo verso questa farsa che chiamano legge, soprattutto se si tratta di giornate rivoluzionarie e processi speciali di antiterrorismo. Con questo attacco vogliamo mandare la nostra amicizia e rispetto ai nostri fratelli e alle nostre sorelle in America Latina, ai compagni dignitosi Freddy Fuentavilla, Marcelo Villarroel, Juan Aliste Vega, accusati nel caso Security, i tre compagni che hanno preso parte alla lotta armata contro lo Stato cilene tra gli anni 80 e gli anni 90. Adesso sono prigionieri accusati di rapine e l'omicidio di un poliziotto. Lo dedichiamo anche all'irriducibile compagno José Miguel Sánchez, guerrigliero urbano che ha continuato la sua lotta dopo la caduta della dittatura cilena, perché, come scrive lui stesso, non credo alla loro democrazia. Ed anche al compagno anarchico Braulio Arturo Durán González, prigioniero in Messico, accusato di attacchi contro Bancomat, a Hans Niemeyer, accusato di azione sovversiva e attacchi contro i simboli del potere. Lo Stato cileno lo aveva messo ai domiciliari, senza titubare, Hans è fuggito in clandestinità. Sfortunatamente pochi mesi fa è stato nuovamente arrestato. E ancora nostro fratello RZ Carrundo, accusato dallo Stato boliviano degli attacchi della FAI Bolivia avvenuti in quel paese qualche tempo fa, ora in regime carcerario speciale. Allo stesso tempo inviamo i nostri abbracci più affettuosi ai nostri fratelli recentemente scarcerati, Mario Lopez, Ivan e Carla. E se ovviamente anche un enorme abbraccio alla nostra cara amica e compagna Felicity Ann Ryder, clandestina per via di un mandato di cattura in Messico. L'internazionale nera degli anarchici di Prassi attraverso la FAI FRI è ovunque, ai compagni prigionieri, agli anarchici in clandestinità, ai guerrieri anarchici in strada. Per questo vogliamo che la nostra voce e i nostri fuochi viaggino alti fino all'altro capo della terra, fino alla lontana Indonesia, rafforzando l'azione dei nostri fratelli e delle nostre sorelle e delle cellule FAI in quel paese. Da poco le cellule della FAI Indonesia, oltre agli attacchi contro il sistema, hanno realizzato una campagna di controinformazione sull'esecuzione di 4 detenuti per mano della polizia. I 4 giovani erano accusati di aver ucciso un agente delle forze speciali durante una rissa in un bar. Poco dopo essere arrestati durante un raid notturno delle forze speciali in carcere, con Kalashnikov sono stati uccisi dagli agenti nella loro cella. I compagni indonesiani non sono da soli, tutti uniti, anarco-individualisti, nichilisti, caotici, ci incontriamo lì dove la nuova anarchia si fa prassi. Ci conosciamo tramite le nostre azioni e sperimentiamo con la diffusione della federazione anarchica informale. Sfuggiamo alla polizia, ci facciamo più pericolosi, rafforziamo la solidarietà anarchica internazionale e attacchiamo per essa. Per questo, come il fuoco ci unisce, sentiamo la stessa allegria con l'attacco anarchico come la tristezza per la cattura o la morte di un compagno. Prima di concludere, vorremmo dedicare alcune parole a quelli che il suono dell'attacco fa nascere il desiderio di agire. Inviamo pertanto un segnale guerriere di fuoco ai compagni dello Squad Nadir, di nuovo bersaglio della repressione, in un contesto dove la piega del riformismo dell'inglobalizzare tutto, lo Skol Nadir, con tutte le sue possibili contraddizioni, continua ad essere un monito sovversivo che dice: l'anarchia non è un prodotto in vendita sugli scaffali ideologici dei supermercati dei veterani del movimento, ma è la violenza insurrezionale e vagabonda nelle strade. Per finire, sappiamo che i compagni indonesiani hanno subito una perdita alcuni mesi fa. Loro, il nostro fratello, è morto a seguito di una coltellata in una rissa. La loro perdita è la nostra. Per questo abbiamo deciso di dare il suo nome alla nostra cellula della cospirazione che ha inviato il pacco al procuratore, in segno di onore e ricordo del compagno ucciso. Oggi la cospirazione delle cellule di fuoco risorge dalle sue ceneri promuovendo il progetto Fenice. Nuove cellule della cospirazione sono pronte a scatenare la nuova guerriglia urbana anarchica. E se gli anarchici riformisti ci calunniano dicendo che la nostra mentalità e il nostro metodo sono simili a quelli della mafia, è perché loro sembrano ogni giorno di più degli hippies di sinistra. Creiamo cellule della FAI FRI in ogni posto per la diffusione della nuova guerriglia urbana anarchica. Forza e solidarietà allo Skol Nadir, forza e solidarietà ai nuovi nichilisti, agli anarchici d'azione, ai caotici della negazione, alle minoranze armate degli anarchi individualisti. Cospirazioni delle cellule di fuoco, FAI FRI, cellula Rio. E questo era il breve testo dei compagni greci, che insieme a quelli indonesiani fanno sempre brevi testi di rivendicazione. No, a parte gli scherzi, io ci scherzo sempre su questo, però comunque bene, perché viene approfondito un po' di più l'attacco e le motivazioni dell'attacco. Allora, io ho bisogno di farmi mezzo litro d'acqua dopo questa lettura, quindi ci ascoltiamo un brano che nemmeno a farla apposta si chiama La Fenice. Loro sono Colle del Formento e dopo si ritorna qui e si va al numero 7 della Fenice. Sì, Colle del Formento, danni, fasi, don caos, c'è il 2006, secondo atto, seguo atto. La Fenice. Passami che tutto salta, tutto tende all'essere distrutto, tutto cambia. Una Fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. E provaci, toccami le ali e bruciati, sei niente, solo un'altra vittima, abituati. Una Fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. In più tocca anche sorridere, se no sei fuori standard. Bisognerà uccidere, ma è solo propaganda. Rimanda, perché decidere è una domanda, comanda. Sono chi sa dirigere sta banda. Chi si tramanda solo rimedi in plastica. Ogni realtà sarà una lavanda piastrica. Chi ne mastica avrà un boccone amaro. C'è la ricetta classica, il sapore di curare. Ora lascia che sia chiaro, sta roba non ritorna. E l'ombra dietro il sipario mi sembra che ancora dorma. Si informa che lo scenario sta cambiando. E di norma gira al contrario, non ti sta aspettando. Prova a dirmi quando. Vediamo se procedere, ma come lo domando, cos'altro ci può succedere. Se una Fenice risorge dalla cenere. Se una Fenice risorge dalla cenere. Passa niente, tutto salta, tutto tende all'essere distrutto, tutto cambia. Una Fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. E provaci, toccami le ali e bruciati, sei niente, solo un'altra vittima, abituati. Una Fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. Sono sguardi che uccidono da me, rispetto dove tutto intorno è fuoco e fiamme. Società crack con il rap che si espande, non so come lasciare la mia firma e questo è l'importante. Se brucia tutto quanto, la morte quando viene te se incolla e non esiste santo. E io che credo manco tanto, li vedo sti bastardi stare in piedi mentre i buoni sono al campo santo. Sputo sangue e canto, con i nervi a fior di pelle, i piedi nella merda e lo sguardo sulle stelle. I sogni non costano niente, so come la speranza ma mai abbastanza realmente. E allora muovo i miei passi, a volte tutto bene, a volte calci ai sassi. La gente è una cacciara, tocca sopportarsi, ma io manco te vedo tipo Mari in Barzi. Parlo e non mi senti, e ma così ci metto l'anima tutta contenti. Tu vuoi cuore, testa e tutto quello che c'è intorno. Pensi che vai alla grande ma stai toccando il fondo, in fondo. Passo niente, tutto salta, tutto tende all'essere distrutto, tutto cambia. Una Fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. credere e provaci, toccami le ali e bruciati, sei niente, solo un'altra vittima, abituati, una felice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. E mi ritrovo di nuovo come dentro un videogioco, mi fanno fuori se non mi sbrigo, se non mi muovo, schivo, evito la presa male totale, drastica, ma il mondo è una violenza dalla nascita, lascia che sia un'idea a guidarti, anche se nessuno ha più il coraggio di ascoltarti, altro che tafferugli, tengo a bada gli sciacalli, mi muovo sottoterra dentro i tunnel come i Charlie, che il gioco giocano gli dèi, e intanto i ragazzini si fanno le spade di Special K, e urrate, le previsioni sono peggiorate, la gente compra i sogni, fa i bagagli, amen, l'umanità che fa, sta affondando, hanno costruito feticci fatti di stracci e fango, è una carestia e non si sta placando, calma piatta in mare, ma il lava mi sta ustionando, provaci, toccami le ali e bruciati, sei niente, solo un'altra vittima, fottiti, una fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere, sì. Questo che stiamo ancora ascoltando è il finale della Fenice, il brano di Colle del Formento che abbiamo mandato nemmeno fa la posta. Dopo il progetto numero 6 della Fenice, Eat the Judge, mangia i giudici, come dicevamo, è arrivato al numero 7 il progetto Phoenix, Fenice, questa volta è arriva dalla Russia il numero 7, sta diventando una puntata molto carina da seguire, spero che vada avanti ancora per un po'. Allora, questa volta si va in Russia, come diceva, a Bryansk, dove c'è un attacco Elf-Fi. Allora, leggiamo il testo rivendicativo. Il 2 ottobre 2013 due dispositivi incendiari fatti da un litro e mezzo di benzina sono stati piazzati in una segheria situata in un territorio di riserva di caccia di Bryansk, Russia occidentale. Le fiamme hanno raggiunto anche gli stracci sfortunatamente lasciati dai cacciatori proprio sul dispositivo. Da una collina vicina abbiamo visto il tutto molto chiaramente. Presto il fumo si è addensato sotto al tetto creando una sorta di nebbia e riempendo la struttura. Proponiamo questa azione come il nostro contributo al progetto Fenice numero 7, un progetto per l'azione diretta e la resistenza anarchica a fronte della repressione tra il 2010 e il 2012. Concordiamo totalmente con i nostri compagni moscoviti del CCF e ELF quando parlano della necessità di allargare i nostri attacchi contro lo Stato e il capitale. Alcuni pensieri riguardo alla recente critica fatta da alcuni anonimi compagni dell'Argentina riguardo all'essere autoreferenziali o inclini a diffondere azioni utili. I dibattiti interni non sempre meritano di essere pubblicati in inglese su siti internazionali. Inoltre crediamo che una serie di attacchi contro obiettivi simili continua ad accendere il dibattito nel movimento anarchico almeno a livello locale. Possiamo citare la campagna contro la polizia dal 2008 al 2011, quella sulle foreste di Khimki e Butovsky, le recenti proteste contro il progetto minerario a Voronezh. Alcune volte le cose superano i dibattiti. Concordiamo nel ritenere molto difficile coordinare attacchi simultanei contro strutture simili a livello internazionale, come fabbriche di pellicce, segherie, polizia, prigioni, obiettivi militari, industrie, banche, settore petrolifero, gas, eccetera, eccetera. perché questo richiede più tempo e noi stiamo comunicando ad un livello più o meno pubblico in questo caso. Dunque i nostri nemici possono avere la meglio, è da dibattere se dovremmo rischiare la nostra libertà nell'prossima azione per la possibilità di avere un comunicato riguardante un'azione simile a 6 mesi di distanza. Inoltre non si può dire che non ci coordiniamo in qualcosa. Notizie di una serie di attacchi contro infrastrutture energetiche ed elettriche in Bielorussia, Canada, Indonesia, azioni contro banche nel Regno Unito, Russia, Germania, Italia, Grecia, numerosi scioperi della fame simultanei fatti dai nostri compagni prigionieri in tutto il pianeta. Per noi l'intera FAI-FRI è più importante per il fatto di appartenere ad una comunità più grande. Nel passato dominavano solo le organizzazioni di anarchici sociali. Adesso gli anarchici di altre tendenze possono supportarsi e relazionarsi in tutto il mondo. Solo qualche anno fa, nel nostro paese, se volevi contattare degli anarchici dovevi passare attraverso le organizzazioni anarchiche tradizionali. E se accadeva qualche cosa, erano le prime a parlare di infiltrati, della polizia e provocatori. Adesso la gente che sente le stesse cose, che vuole andare verso la ribellione e le azioni non meno valide rispetto alla teoria anarchica, possono trovarsi fuori dal contesto anarchico, pacifista e riformista. E quando leggiamo di centinaia di auto bruciate in una parte del mondo, banche in fiamme in un'altra e i veicoli delizi sabotati altrove, è ancora meglio. Un breve viaggio nella memoria, ricordiamo le discussioni accese sull'acronimo FAI solo qualche tempo fa, o prima quella del supporto denunzia della CGF. Crediamo che sia una conquista di ogni gruppo della FAI-FRI se le cose sono cambiate. Capiamo le vostre preoccupazioni riguardo alla mancanza di una coordinazione dei nostri attacchi, ma dobbiamo discutere anche di un'altra cosa. Nuovi gruppi si formano, le notizie girano, contromisure alla repressione. Se si vogliono coordinare gli attacchi in maniera più precisa bisogna solo leggere meglio i comunicati degli altri. Ma combattere la repressione in corso contro tutti i gruppi di azione diretta nel mondo, questo è il compito che crediamo dovrebbe essere svolto il più presto possibile. Elf Fai, comando Nestor Makhno. E questo era il progetto Fenice numero 7, la rivendicazione dell'attacco a Bryansk in una segheria. Non c'è niente da aggiungere, ci ascoltiamo un paio di brani, la prima è Kenny Arcana con Nature Sauvage e poi dopo non lo so, ancora non l'ho scelto, io scelgo, faccio le cose sempre all'ultimo momento, quindi il primo è Kenny Arcana ed è sicuro, il secondo lo ascolterete e poi vi dirò quale sarà, nel caso non l'avete riconosciuto. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. La mémoire des notes, de nos galères et des potes, des coups de sang énormes, du poids sur les épaules, à la lumière de nos torts, de nos erreurs et des vôtres, à la folie de l'époque, à tous les fruits de nos révoltes, à nos rêves qui se vautrent, au monde qu'on nous a laissé, aux idées, aux comports, à les tripes de nos âmes blessées, aux notes qui s'endorment, la haine au ventre, nos rêves d'enfants, à l'air, aux formes, à fond. Voici que reviennent les sauvages, secouer ceux qui dorment dans leur cage dorée. Ce qu'on ne dompte pas, ce qui est crié sur les toits, la vie, de liberté perdue, que la nature reprenne ses droits. Sur nos voiles, les poumons pleins de rêves, laissez passer les sauvages et au-delà de vos lois, comme l'amour, comme le temps, comme la mort, comme le vent, comme la vie, comme le grand, bienvenue dans la création, cachée que ce n'est pas la vôtre, libre enfant de Dieu, ce n'est pas votre veau d'or que l'on adore sous les canons des ordures. Ils ont mis du plomb dans les dites-leur qu'on ne dort plus, que leur monde est tordu, qu'on évite les torpilles de leur psychique torture, même si ça vous importune. On porte une cause, amis ta fortune, déploie tes ailes et deviens qui tu es. Oh, oh, oh. Voici que reviennent les sauvages, secouer ceux qui dorment dans leur cage dorée. Nous sommes une prise aussitôt. questa giusto per dare un continuo era Dust in the Cathedral, loro erano Eat Your Makeup. Allora andiamo avanti con le ultime due cose di controinformazione della giornata. Leggeremo prima una lettera del compagno Spiros Mandylas, lo ricordo, Spiros è stato arrestato qualche giorno dopo l'iniziativa organizzata a Salonicco allo scorso Nadir sulla controinformazione, in cui erano stati erano intervenuti vari compagni che portano avanti un po' la controinformazione in tutta Europa, a livello internazionale, diciamo. Leggiamo la lettera di Spiros, 4 settembre 2013. Alcuni senza pensarci seguono i percorsi imparati una volta per tutte verso il loro lavoro e la loro casa, verso il loro futuro prevedibile. Per il loro dovere è già diventato un'abitudine e l'abitudine un dovere. Essi non vedono la carenza della loro città, ritengono che la carenza delle proprie vite sia naturale. Non vogliamo rompere questo condizionamento alla ricerca di nuove passioni. Guy Debord. E questa era la citazione che metteva Spiros all'inizio, invece inizia la lettera, una lettera suddivisa in vari paragrafi. Ne leggeremo qualcuno, la lettera è lunga, poi manderemo un brano e poi dopo si torna a leggere il resto della lettera. Allora, una breve cronaca del mio arresto. Nella notte di giovedì 11 luglio 2013 gli agenti dell'unità antiterrorismo hanno fatto nuovamente irruzione nello squadro anarchico Nadir a Salonicco. Sono stato arrestato e subito trasferito agli uffici dell'antiterrorismo ad Atene, dove mi è stato detto che tre ore prima del mio arresto era stato catturato fuori dalla sua abitazione nel quartiere di Stavropoli a Salonicco il mio compagno e amico Andreas Tsavaridis. Mi è stato chiesto di dare le impronte, un campione di DNA e le foto, ma mi sono rifiutato, così le hanno avuto con la forza. Poco dopo mi hanno notificato l'accusa in merito al Project Gare con Andreas, che mi ha raccontato le stesse cose che erano successe a me. In più la polizia ha annunciato che i 10 membri della cospirazione delle cellule di fuoco sono accusati come istigatori del progetto Fenice. E questo l'avevamo letto già prima in altro testo. Poi parla dell'operazione, nella lettera denominata Operazione Gioia Armata, e qua c'è da farsi le risate, perché cioè, si riesce a capire fino a che livello di imbecillità mondiale arrivano i procuratori, i giudici, i sbirri, investigatori e inquisitori vari. Quindi, Operazione Gioia Armata. Dal trasferimento ad Atene fino alle prime ore del giorno dopo, gli agenti hanno perquisito il Nadir. Hanno sequestrato i server dello SWAT, tra le altre cose. Comunque si sono concentrati sulla libreria, dove hanno scoperto il testo La Gioia Armata, con una pistola raffigurante copertina, edizione in greco di La Gioia Armata di Alfredo Maria Bonanno, stampato dallo SWAT Nadir in giugno 2013, cui i ricavati erano benefit per gli anarchici prigionieri. Così c'è stata una grande perquisizione nella libreria e nel resto dello squat. Hanno preso impronte, cicche di sigarette per il DNA, bottiglie di birra vuoto e gli altri piccoli oggetti della libreria, nel tentativo di cercare la stessa pistola raffigurata sulla copertina del libro. E questa è una barzelletta. Poi quando dicono le barzellette dei carabinieri, i carabinieri italiani non sono soli, quindi cari carabinieri italiani, cioè avete una solidarietà molto internazionale, siete molto solidarizzate molto più a livello internazionale rispetto agli anarchici, quindi sulla vostra imbecillità e sulla vostra ridicolaggine. Nuovo capitolo, l'altro paragrafo della lettera è sorveglianza discreta. Il progetto Fenice è iniziato il 7 giugno 2013. È stato un appello della cospirazione delle cellule di fuoco, bande di coscienza, nucleo sole baleno, FAI, FRI, con l'intensificazione dell'azione guerrigliera urbana. Da quel giorno fino al 12 luglio, giorno della mia formale accusa, varie cellule della FAI, della rete FAI FRI hanno rivendicato attacchi. In questo stesso periodo sono stato sorvegliato da agenti dell'antiterrorismo. Questa infame sorveglianza discreta dell'antiterrorismo era tutto tranne che segreta. Ben prima del mio arresto gli agenti avevano avvertito i miei compagni del Nadir che la polizia era sulle mie loro tracce, dicendo ditelo a Spiros, eccetera, eccetera. Come dato di fatto, durante una sorveglianza discreta nella centrale strada di Agio Dimitru a Salonicco, gli agenti hanno bloccato più di 5 veicoli per farmi sapere che avevano scoperto cosa volevo fare, insinuando cose e mostrando quando volevano mettermi fuori gioco. Questo è stato dimostrato anche da un altro evento. A metà giugno sono andato ad Atene per far visita a un membro delle CCF, Christos Kalos, nella prigione di Korydallos. Il Ministero della Giustizia è intervenuto e mi ha vietato la visita, con una decisione dell'ultimo minuto. Da quel momento la sorveglianza è stata ancora più stretta e spesso ho notato agenti in borghese proprio fuori da Nadir. Sto dando rilievo a questi eventi per dimostrare che per una persona che agisce pubblicamente, in quel periodo uscivo spesso per attacchinaggi, ho parlato di presentazione di libri e altro, ed è monitorata così da vicino come gli stessi agenti hanno ammesso, sarebbe quasi impossibile prendere parte a 4 attacchi esplosivi. Sia la pista accusatoria che il senso comune implicano che ciò non può accadere. Inoltre, il giorno dell'invio del pacco incendiario a Korianopoulos, 1 luglio 2013, io ero ad Atene per il colloquio a Korydallos. Il fatto che la mia custodia preventiva sia stata decisa senza l'ostaggio di una prova non mi sorprende, non dovrebbe sorprendere alcun altro. Lo Stato riconosce una guerra tra due parti e agisce di conseguenza. Noi dobbiamo essere consapevoli che esso conduce la guerra senza alcuna moralità. E l'altro lato che deve ancora capirlo. Io non voglio che il mio caso venga presentato come è stato fatto con altri, con prigionieri etichettati come combattenti innocenti. Mi riferisco ovviamente ai casi nei quali il cosiddetto movimento fa qualunque cosa necessaria per il rilascio di un compagno innocente, tralasciando chi ha rivendicato le proprie azioni ed è ostaggio dello Stato. Riguardo alle operazioni repressive dell'antiterrorismo contro lo Squad Nadir, per me è chiaro che hanno un solo obiettivo, cercare di abbattere il ponte che sta tra pubblico e clandestino. Negli ultimi anni lo spot al quale ho preso parte si è occupato tra gli altri del caso della cospirazione delle cellule di fuoco e ha chiaramente supportato la tendenza di una nuova anarchia realizzando attività, dibattiti, presentazioni, librerie, interviste e benefit, ospitando eventi in cui sono intervenuti compagni prigionieri verso una prospettiva di costanza insorgenza anarchica. Questo è anche il motivo perché questo squad anarchico è stato più di una volta bersaglio dei media, dei partiti e della polizia. E questa era la prima parte della lettera di Spiros. Ora ci ascoltiamo un brano, lei è Len Lovitch con il brano Savage, e poi dopo si torna qui e si legge l'altra parte della lettera. E lei era Lidia Lancio con il brano Savage. Si continua con la seconda parte della lettera di Spiros, Spiros Mandalis, se ne lo ricordo per chi si è acceso la radio in questi ultimi istanti. L'ho visto che qualcuno ha acceso la radio in questi ultimi istanti, si sta leggendo la lettera del compagno arrestato, compagno appartenente allo Scott Nadir, insieme a Andrea Zavaridis, Spiros Mandilas. Allora, Squat, repressione e anarchia formale. Ultimamente la questione degli squat è stata in primo piano a causa delle operazioni repressive statali. Gli squat sono strutture e progetti che possono essere un valido strumento insurrezionale se usati in chiave offensiva. Se diventano un fine in se stessi, diventano laboratori di alienazione e sottocultura alternativa, relegando il movimento ad un livello di mediocrità. Gli squat sono le basi delle operazioni verso l'insorgenza, piuttosto che un posto dove studenti e lavoratori possono avere rifugio. È vergognoso e degradante rivendicare il proprio status di studente o lavoratore come identità ideologica. Gli occupanti non hanno bisogno di cercare di rassicurare la società se l'anarchia non è questo o quello, arrivando addirittura ad offrire garanzie su ciò che verrà dopo. La verità è che la rivoluzione non garantisce nulla. Inoltre si può facilmente osservare l'insieme di anarcodetentori nello stesso movimento. Nessun anarcopaternalista dovrebbe poter utilizzare gli squat e le assemblee col fine di creare un circolo di persone da poter sfruttare alla prima occasione per creare un bar del movimento o una cooperativa con clientela anarchica. Questo è il metodo favorito da altre persone con altre esperienze. Questi PR, Public Relation Anarcopaternalisti, dovrebbero mettere da parte l'anarchia e preoccuparsi seriamente delle pubbliche relazioni. L'anarchia può fare a meno di loro, far ridere l'aggettivo PR Anarcopaternalisti, perché essendo un ex squatter so benissimo a chi si riferisce, a che tipo di persone si riferisce Spiros. Negli ultimi anni il movimento ha avuto i peggiori rapporti con la nozione di solidarietà offensiva, preferendo divagare nella miseria delle assemblee affollate, andando negli auditorium universitari a piagnucolare sulla repressione. Come dato di fatto, nel caso degli squat è risaputo che alcuni anarchici hanno iniziato a svuotare i propri squat dopo che il ministro dell'ordine pubblico, Nikos Dedias, ha annunciato i primi mandati di sgombero. Nel corso degli ultimi 4 anni e dopo che i membri delle organizzazioni anarchiche principali dell'ultimo decennio, la cospirazione delle cellule di fuoco e lotta rivoluzionaria, sono stati arrestati in Grecia, la maggioranza del movimento ha dimostrato la propria pochezza in modo incredibile. In verità la gente del contesto anarchico ha rilasciato dichiarazioni di legittimità prendendo le distanze o anche isolandosi dalle formazioni armate. Finché quelli che si identificano col movimento penseranno in termini giuridici, finché le loro risposte saranno definite dalla repressione, finché cercheranno di separare la natura inscindibile della teoria e della pratica, sicuramente continueranno a perdere potenziale, pericolosità, infrastrutture e persone che partecipano. Alcuni anarchici atterrano su un terreno accidentato quando cadono dalla loro nuvola dell'appello alla società, persi nel sogno di una rivoluzione popolare, così come oggi il movimento dichiara, mentre adotta la visione della sinistra con un pizzico di presunto antistatalismo, restando come un tipo di opposizione. Contro questa parodia, la tendenza della nuova anarchia parla della diretta e costante insorgenza anarchica, della diffusione anarchica, da qui e ora, un'insurrezione senza compromessi o tregue. La nuova anarchia non offre garanzie o non accettabile ruolo sociale ed è chiaramente lontana anni luce dalla codardia e della rigidità di un movimento anarchico anti-autoritario che ha a che fare solo con lo stile di vita. I miei saluti agli indomiti combattenti del negativo, forza compagna Andrea Zavaridis, ai membri delle CCF e alle dozzine di cellule FAI FRI. Poi c'è un post scriptum: alcuni giorni fa alcuni ignoti fratelli e sorelle della cospirazione internazionale per la vendetta in Indonesia e le cellule Rio, cospirazione della cellula di fuoco, ci hanno dedicato i loro attacchi. Compagni, sappiate che i vostri gesti ci hanno dato grande forza. Rabbia e consapevolezza, Spiros Mandilas. E poi se volete sotto sul post che è nel blog, dove c'è la lettera di Spiros, sotto la firma del compagno c'è anche l'indirizzo per potergli scrivere. Io invito sempre a scrivere compagnie in galera e far sentire la propria vicinanza. È carino ricevere lettere in galera, ve lo garantisco. Quindi scrivete, anche se il sottoscritto è uno che ultimamente scrive poco. Sono un po' paraculo su questo, sono tempi, non devo darvi giustificazioni, ma perché cazzo vi devo dare giustificazioni ora, perché ultimamente scrivo poco in carcere. Quindi, però l'importante è che lo facciamo tutti. Ora, dopo questa breve cazzata mia, dopo la seconda e ultima parte della lettera di Spiros, ci ascoltiamo un brano degli Scouts, Down the Road, poi si torna qui, si dà un'altra breve notizia, un brano musicale e poi tutti a fanculo. questi erano gli Scouts con il brano Down the Road. Dicevo, ultima notizia di controinformazione, ultimo brano finale, poi ci fanconizziamo tutti. Voi sarete più contenti perché non ascolterete le mie cazzate. Io sarò contento perché fortunatamente vado anche a accesso. Dopo questa breve parentesi, leggiamo l'ultima notizia di controinformazione. Questa volta è dall'Italia, dove è dall'Italia, arrivano sempre notizie di merda dall'Italia, non capisco perché non arriva una buona notizia, qui arrivano sempre dall'Indonesia, dalla Grecia, dall'Argentina, dal Messico, dall'Italia arrivano sempre notizie di merda. Allora, Perugia, l'ombra dei porci comodi, sono state chieste le pene sull'operazione Shadows. L'altro ieri, il 9-10-2013, presso la Corte d'Assise di Perugia, la PM Manuelita Comodi, o Comodino, o Comò, boh, non lo so, fate voi, ha richiesto le seguenti condanne per i compagni accusati del cosiddetto processo Shadow. Sergio Maria Stefani, 10 anni e 1200 euro di multa. Alessandro Setepani, 8 anni. Alfredo Cospito, Anna Beniamino e Stefano Del Moro, 5 anni e 6 mesi. Maria Ludovico Maschietto, 4 anni. Il 16 ottobre sono previste le repliche della difesa, mentre la sentenza è programmata per il 22 ottobre. Solidarietà a tutti i compagni accusati. E quindi ancora, cioè, vabbè, questa si sapeva già, questa è un'inchiesta che parte dal giornale KNO3, a causa di un giornale si rischiano anche 10 anni e 1200 euro di multa in Italia, si rischiano 8 anni, 5 anni e 6 mesi, 4 anni, insomma, cioè, un giornale può causarvi un decennio in carcere. Queste sono le perle di saggezza del porci comodi della Manuelita Perugina, quella PM, per chi non la conosce, quella che si è fatta fregare dagli americani, che si sono presi Amanda Knox per l'omicidio della Kerchel. Fortunatamente è stata cioè una cosa buona, cioè almeno la ragazza è andata via dal carcere italiano, colpevole innocente non ce ne frega un cazzo, l'importante è che sia fuori dal carcere. Quindi gli rodeva il culo per questa cosa, lei voleva creare questa inchiesta, aveva arrestato un'americana e quindi sapeva che avrebbe creato il macello intorno a sé, avrebbe attirato i riflettori, quindi la porci comodi vedendosi soffiare la Amanda Knox ha iniziato a indagare pure sugli anarchici, sull'operazione Shadows per quanto riguarda i giornali, ma poi l'operazione Ardire, che ve lo dico a fare. È una donna, una pin-up cinquantenne che non vede l'ora di essere invitata da Bruno Vespa Porta a Porta, evidentemente. Allora, dopo questa ultima breve notizia di merda che arriva dall'Italia, ricordo gli appuntamenti con Radiazione. Lunedì prossimo, vediamo la data, così vi dico anche la data, sono preciso, ogni tanto sono preciso. Lunedì 14 ottobre, controinformazione, lettura della Zantraglia con Marcello e musica. Invece venerdì 18 la diretta non andrà in onda, verrà anticipata a giovedì 17. Sono napoletano, tocco ferro, il 17 porta male, sto scherzando. Quindi lunedì e giovedì 17, lunedì 14, giovedì 17. Gli orari sono gli stessi, ore 17, ore 19, fine. Ore 17, ore 19, fine. Vi ricordo, non accendete la radio in altri giorni perché non sentirete niente. Se volete ascoltare, se tanto vi manca la mia voce, se tanto vi mancano le mie cazzate, andatevi ad ascoltare i podcast della categoria Ascoltare Dirette d'Azione. E questo era per quanto riguarda gli appuntamenti prossimi della diretta d'Azione. Invece ricordo gli indirizzi utili per Radiazione. È arrivata una mail, vediamo che cazzo è, no, pubblicità, quindi niente, volevo darvi un'ultima notizia prima di chiudere la diretta, invece le cazzate. Dicevo, gli indirizzi utili, la mail di radiazione per inviare qualsiasi tipo di scritto, qualsiasi tipo di comunicato, qualsiasi... Allora, noi radiazione pubblica tutto, il sottoscritto pubblica tutto, quello che è affine, quello che è affine, e pubblica anche quello quando ci sono, quando radiazione fa delle critiche, tende a pubblicare anche le risposte di chi viene criticato, di chi ci venga inviata qualcosa alla posta di radiazione e non venga pubblicato. Ultimamente è capitato che qualcuno si è lamentato, essendo puzza di pecora, si è lamentato che non gli sia stato pubblicato uno scritto, invece no, perché ce l'hanno inviato i compagni di informazione.info e è stato pubblicato immediatamente, tanto di contro mini contro risposta, non c'è tanto da rispondere alle cazzate del re nudo. Allora, radiazione @autistici.org. Potete anche inviare qualche consiglio su qualche libro da leggere il lunedì quando c'è Marcello. Scegliete libri grandi, scegliete libri grandi, facciamolo scherzo a Marcia, scegliete un bel libro, un bel mattone, lo vediamo. No, sto scherzando, altrimenti qua ci tocca fare una diretta come Lugio che è durata 5 ore per chiudere la mandata dell'Orsa Maggiore, quindi no. Allora, un consiglio ogni tanto lo potete mandare, fino ad ora sono mancati i consigli, vengono più da fuori, da persone che conosciamo, che ascoltano la radio, che attraverso mail. Insomma, per i blog invece radiazione.noblog.org, che ve lo dico a fare, frequenze di infami, di azione in diretta no, di infami, cioè infami lo dice qualcun altro, frequenze di azione in diretta, radiazione, siamo seri, dove già da domani potete andarvi a riascoltare la diretta d'azione di oggi per chi se l'è persa a metà, per scaricarvi opuscoli, cd, manifesti, tutto quello che per radiazione non è merce. Trovate la controinformazione aggiornata quasi quotidianamente, quando è possibile, quando c'è, quando non c'è siamo fermi, ce la prendiamo di pausa. Allora, radiazione.noblogs.org per la radio, invece radiazione.listentumaradio.com, altrimenti attraverso il banner nella sidebar di radiazione ci cliccate sopra il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19 ed ascoltare la diretta d'azione. Ora vi lascio con un brano, sto parlando cinese, allora non posso parlare, altrimenti mi prendono per razzista e dicono che offendo pure i cinesi, quindi Velvet Acid Christ Fucking Freak. Ecco, questo, ci salutiamo e l'appuntamento è a lunedì prossimo. a disgusting man who could barely stand up, a man who, if you saw him on the street, you'd point him out to your friends so that they could join you in mocking him, a man who, if you saw him while you were eating, you wouldn't be able to finish your meal. Dedicated his life to making money by lying with every breath that he could muster to keeping murderers and rapists on the streets. Murderers. Let's go.